inseguire la fortuna. Se il cuore piange mentre s'allontana e sogna il casolar sulla collina e nella valle il suo della campana. Non penserò che a te, speranza mia, ogni pensiero mio sarà per te. Quando in aprile il sole bacia le rose al mio paese ritornerò. Non penserò che a te per ogni via. So che i miei baci tu non puoi scordare. Non voglio più morire di nostalgia. Vicino a te ritornerò, anima mia. Tenderai sull'uscio all'imbrunire, stringendo fra le lacrime una rosa. Le rondini verranno a salutare chi povero è felice. Quando in aprile il sole bacia le rose al mio paese ritornerò. Non penserò che a te per ogni via. So che i miei baci tu non puoi scordare, non voglio più morire di nostalgia. Vicino a te ritornerò, anima mia.